Potete accomodarvi, il vantaggio di avere un microfono ad archetto che sto indossando in questo momento è che posso applaudire, è bello poter applaudire, lo svantaggio è che non posso cantare, perché se no si sente come stono, quanto stono, e invece è così bello poter cantare a squarciagola, però grazie di averlo fatto per me, con me. Ci troviamo a quella che è la prima delle tre domeniche che dedicheremo alla visione di Chiesa e all'orientarci insieme come corpo di Cristo e in maniera specifica come Chiesa Pieno Vangelo per l'anno che ci sta davanti. Perché oramai storicamente è quello che facciamo sempre. Ogni gennaio, ogni primo mese dell'anno dedichiamo più di una domenica a capire quali sono gli obiettivi, gli scopi, i propositi che Dio ha per noi per il nuovo anno, quali sono i valori nei quali noi vogliamo investire, quali sono le azioni che sentiamo che lo Spirito Santo ci sta portando a fare come Chiesa, come comunità di credenti, come famiglia di Dio qui a Modugno e come Pieno Vangelo in ogni parte, anche nelle tante città che sono rappresentate. Ora, quello che è difficile fare in questo anno, nel 2021, è proprio orientarsi, siete d'accordo con me? Se c'è un anno che è in modo particolare difficile dire da qui a un mese faremo questo, da qui a due mesi perseguiremo questo obiettivo, è proprio in questo 2021, perché ci troviamo in un anno nel quale siamo ancora in piena pandemia, nel quale ci sono più dubbi che risposte. E quindi come pastore, questo è l'anno più difficile nel quale preparare dei messaggi che hanno a che fare con la visione di Chiesa. E mi sento un po' come quando vieni interrogato e non sei preparato. Vi è mai capitato di essere chiamati all'interrogazione da un professore, da una professoressa, e sei completamente impreparato, cioè non sai una cicca di quello che ti sta per chiedere, e poi fa la prima domanda e tu cerchi con ogni sforzo di memoria di ritornare a quell'istante nel quale l'insegnante ha insegnato, ha spiegato quella lezione. Cerchi affannosamente, cerchi con tutte le tue forze, i criceti nella tua testa stanno lì che corrono in questa ruota che però gira a vuoto perché non trovi niente. E allora disperato guardi al resto della classe, perché in quel momento sono i tuoi compagni, le tue compagne di classe che possono venirti in soccorso. Forse in questi tempi è un po' diverso, forse ci sono altri mezzi con la DAD, però quando sei interrogato in presenza cerchi con lo sguardo di individuare quel tuo compagno generoso, buono e soprattutto preparato che può darti il giusto suggerimento. Non so voi, ma io ero in una classe di perduti, di persone che almeno eravamo uniti in questo, però non c'era speranza nel guardare i tuoi compagni di classe. C'era qualcuno che si improvvisava ad aprire il libro che non conosceva e che in quel momento stava aprendo per la prima volta per cercare di trovare un suggerimento da darti, e quindi tu speranzoso continuavi a guardare quello lì che sfogliava ma che non trovava la risposta, e quindi impreparato rimanevi lì smarrito. Ed è un po' così che ci sentiamo forse, smarriti, persi. Vi siete mai persi? Mi è mai capitato? Posso vedere la mano di chi si perde molto spesso e volentieri, geograficamente parlando? Grazie amore, immaginavo che tu alzassi la mano, grazie per la tua onestà. Dovete sapere che mia moglie ha un ottimo senso dell'orientamento spirituale, ma quando si tratta di non ci siamo per nulla. Ricordo, mi sa che nel viaggio di nozze, qualche volta, proprio per testare questa cosa, no? Conoscerla un po' meglio, mi facevo un po' indietro, no? Nella nostra passeggiata, e dicevo: Giorgia, ti ricordi dov'è l'albergo? Dovremmo andare a sinistra o a destra? E lei diceva a destra, convinta, ed era puntualmente a sinistra. E se lei diceva che era a sinistra, era a destra. Così che a un certo punto ho detto: Gio, qualsiasi cosa ti viene in mente, pensa alla direzione opposta, perché è quella giusta. Ricordo che una volta ci siamo persi con alcuni di voi a Venezia. Era tarda serata e ci siamo avventurati in Venezia. Non c'era nessuno. È stato il viaggio e l'esperienza forse più brutta che si possa avere a Venezia, perché non c'erano turisti, tutti i negozi erano chiusi, i ristoranti erano chiusi e noi ci siamo persi. E di questi tempi, anche all'epoca, potevi tranquillamente contare su Google Maps, ma io vi assicuro che il navigatore non ti serve a nulla a Venezia, perché a Venezia ci sono tutti questi vicoli tortuosi e poi non sai se sfociano in un canale, c'è tanta acqua e quindi ci siamo persi. E quando ti perdi, a un certo punto nasce l'esasperazione, a un certo punto ci siamo voluti dividere, c'era stato un momento nel quale nella disperazione più totale avremmo voluto annegare qualcuno nel canale, c'era proprio un disorientamento totale. E a volte nella vita è proprio così, a volte noi ci sentiamo disorientati, però io voglio darti speranza perché in Cristo Gesù noi abbiamo sempre orientamento, non c'è epidemia o cataclisma su questa terra che possa smarrire i figli di Dio. Noi siamo sulla faccia della terra il popolo più orientato, posso dirvelo? Noi siamo sulla faccia della terra le persone che hanno più chiarezza di dove andare quando nessun altro sa dove andare. Noi siamo sulla faccia della terra le uniche persone che veramente sanno cosa fare quando tutti gli altri non sanno cosa fare. Sei convinto di questo? E io voglio incoraggiarti in questo tempo, in questa stagione, in questo anno a ritrovare la tua strada se l'hai persa, perché non hai ragione di sentirti smarrito. Forse possiamo sentirci disorientati, ma non persi. E la differenza è che se sei perso non sai neanche dove ti trovi, ma se sei disorientato sai dove sei, non sai bene dove devi andare e quale direzione intraprendere. Però insieme abbiamo cominciato in questo mese la lettura del libro di Esodo, benissimo. E oggi ci ritroviamo nel capitolo 12 di Esodo, benissimo, grazie, sono così contento che insieme lo stiamo leggendo. Ma io voglio ritornare un po' indietro nel tempo, perché abbiamo intrapreso questa lettura proprio perché è così illuminazione per questo tempo, è così di illuminazione per noi popolo di Dio che ha una guida certa in Dio. E io voglio che noi facciamo mente locale a quello che è successo e che abbiamo letto proprio nei primissimi versi, i primissimi capitoli dell'Esodo. Lì noi ci ritroviamo un popolo che era sicuramente disorientato, perché questo era un popolo, il popolo di Israele, si ritrovava in Egitto, ve lo voglio ricordare, per provvidenza di Dio. Si trova nel paese d'Egitto perché Dio li ha tanto amato questo popolo, che ha permesso a Giacobbe e a tutta la sua famiglia, per la benedizione che fluiva da Giuseppe secondo al faraone, di entrare in un territorio nel quale non si risentiva della carestia che era tutto attorno a loro. E quindi loro hanno avuto la benedizione di andare in Egitto per non soffrire la fame, anzi il faraone li pone in una posizione di onore, di privilegio, di provvidenza e di cura. Dopo qualche secolo, e ci ritroviamo nella lettura dell'Esodo che abbiamo fatto, noi ritroviamo lo stesso popolo che si trova nello stesso luogo, ma le cose si sono completamente ribaltate. L'Egitto per loro non è più sinonimo di cura, non è più sinonimo di prosperità, non è più sinonimo di onore, è tutto l'opposto. È un luogo di schiavitù, è un luogo di disonore, è un luogo di povertà, è un luogo di ingiustizia, è un luogo di violenza, ed è qui che noi ritroviamo il popolo di Israele che grida a Dio. E io vorrei leggere con voi questi versi perché ci parlano di come Dio vede noi, anche quando ci troviamo nelle avversità, come si ritrovarono il popolo di Israele. In Esodo 2, al versetto 24, noi leggiamo che Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò. Ascoltate i verbi che vengono utilizzati. Si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Questo è il nostro Dio. Questo è il Dio del popolo di Israele. Ha ascoltato. Dio ascolta, fratelli, sorelle, amici. Dio ascolta, Dio non è sordo a nessuna delle nostre preghiere ed è per questo che con fiducia e sicurezza dobbiamo alzarle a Lui, perché Lui ascolta sempre le nostre preghiere, Lui ascolta sempre le nostre richieste e si ricorda del patto, delle promesse che Lui fa. Lui si è ricordato del patto fatto da Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi godiamo di un'alleanza e di un patto ancora più glorioso che quello in Cristo Gesù, che ci dà diritto di vivere la sua stessa presenza ogni giorno. Noi abbiamo il glorioso patto che Dio ha fatto con ogni uomo che crede in Cristo Gesù di avere salvezza eterna e di avere la presenza stessa sua nella vita del credente. C'è la presenza dello Spirito Santo. Sei consapevole di questo, non sei smarrito, sei molto molto orientato in Cristo Gesù, perché Lui è con te, Lui ti ascolta, Lui ti vede e Lui si ricorda del patto, non si dimentica. Non è che Dio era il nostro Dio bello, buono e fedele nel 2019 e poi nel 2020 si è dimenticato, non ha più ascoltato. E noi ci siamo persi. E ora dobbiamo capire che cosa succederà nel 2021. E puoi riportare quello che sto dicendo anche alle tue situazioni. Ci sono situazioni nella nostra vita che ci disorientano. Ci sono situazioni nella nostra vita che sono ingombranti, che ci portano a gemere, a soffrire, ad alzare urli. Urla a Dio. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, Dio non è cambiato. Qualsiasi sia l'anno, qualsiasi sia la stagione, qualsiasi siano le situazioni o anche gli stati d'animo che tu puoi vivere, Dio rimane fedele al patto che ha fatto con te in virtù del fatto che tu credi in Lui e lo hai accettato nella tua vita, tu sei in una condizione non più di smarrito, non più di perso, ma di ritrovato. Di orientato e di ben saldo in una relazione che nessuno potrà mai rompere. Amen. L'abbiamo cantato insieme oggi, abbiamo cantato ero perso, ora non più. Ero perso, ora, e possiamo dire mai più lo sarò. Abbiamo cantato ritrovato nell'abbraccio suo e queste parole non sono solo belle da cantare. Questa è una verità che ci viene trasmessa da Matteo 18, ad esempio, dove Gesù sta parlando del pastore che lascia le 99 e va in cerca della smarrita e l'abbraccia, la prende sulle sue spalle, la riporta a ritrovare la sua strada, a ritrovare il suo orientamento. E sai che quella pecora sei tu. Ti rendi conto che quella pecora sei tu. Tu sei stata ritrovata. Io sono stato ritrovato. Io non sono smarrito e non voglio accettare la definizione sulla mia vita che è diversa da quello che Dio dice di me nella sua parola. E quindi il mondo si può smarrire, ma noi no, tu no, amen. Non accettare lo smarrimento che c'è attorno, perché tu sei ben orientato. Sapete che i primi cristiani non si chiamavano cristiani, ma venivano chiamati seguaci della via. Gesù che cosa dice di sé? Io sono la via, la verità e la vita. Gesù dice di se stesso che Lui è la via. Come puoi seguire Cristo e sentirti smarrito? Lui è la via e tu sei seguace di una via. Tutto il mondo, quando chiamava i cristiani, stava dicendo: questi sanno dove stanno andando. Questi sono seguaci della via, di questa via che è la via maestra. Noi siamo questo, tu sei questo, questa è la tua identità e io voglio che noi ci orientiamo come Chiesa in questo tempo. Però prima di parlare di quello che può essere un orientamento comunitario, che viviamo insieme come Chiesa pieno Vangelo, è necessario che io oggi parli al tuo cuore affinché tu possa trovare il tuo orientamento in Cristo ed essere ben saldo in esso. E quindi voglio darti delle indicazioni molto chiare, 5 indicazioni da vivere nella tua vita per avere una vita che è ben orientata. Vogliamo viverle insieme, vogliamo vederle insieme. Il primo è non andare a naso. Che tu abbia un piccolo naso, come me, o un grande naso, come qualcuno di fronte a me. Non andare mai a naso. Che cosa significa andare a naso, procedere a naso? Significa andare distinto. Procedere istintivamente. Vai dove ti porta il cuore, dice il detto. E non c'è nulla di più sbagliato e non c'è modo migliore per smarrirti che seguendo il tuo istinto e procedere a naso. Sapete che è scientificamente provato che quando un uomo si perde ed è in un posto dove non ci sono punti di riferimento, ad esempio un deserto oppure una foresta fitta, tendenzialmente, questa è una ricerca scientifica che dimostra che tendenzialmente tutti finiscono per camminare a cerchio e girare in tondo, anche quando sono convinti che stanno procedendo in avanti e stanno andando in una direzione ben specifica. Hanno riscontrato che questo è facile da dimostrare, basta che tu bendi una persona qualsiasi e la lasci camminare e a volte non fa più di 20 metri e disegna già il primo cerchio. E hanno potuto dimostrare che questo dipende dal fatto che tutti noi abbiamo una gamba più vigorosa rispetto all'altra e quindi non abbiamo consapevolezza di quanto stiamo spingendo con una gamba rispetto all'altra e mancando di un punto di riferimento giriamo attorno. Questo è vero naturalmente, però quanto è vero anche nella nostra vita? Quanto spesso ci ritroviamo a vivere gli stessi percorsi, a commettere gli stessi errori? Quanto spesso ci ritroviamo a sentirci smarriti, disorientati, perché non c'è una chiara direzione nella nostra vita e non ci sembra di conquistare nuovi territori? Posso dirti che forse può dipendere da questo. Io oggi non tanto voglio dirti quello che devi fare, ma quello che non devi fare, e quello che non devi fare è procedere a naso. Questa è la prima indicazione che ti do. E noi in Geremia, al capitolo 9, quando il popolo di Israele si è ritrovato perso, si è ritrovato in una nazione devastata e si è lamentato, Geremia, che ha fatto da GPS e ha messo questo megafono e ha cominciato a urlare per tutto Israele di ritrovare la loro via, di ricalcolare la loro navigazione. Qui dopo che il popolo dice, ma perché ci sta succedendo tutto questo? Nel versetto 13 leggiamo la risposta del Signore. E dice, il Signore risponde, perché costoro hanno abbandonato la mia legge che io avevo messa davanti a loro e non hanno dato ascolto alla mia voce, né l'hanno seguita nella loro condotta, ma hanno, ascoltate ora, hanno seguito la caparbietà del loro cuore. E sono andati dietro ai Baal, sono andati dietro l'idolatria dei popoli vicini, come i loro padri insegnarono loro. Ci sono tantissime ricchezze da prendere in questi versi. La prima è che il nostro cuore può essere caparbio e procedendo a naso noi possiamo essere guidati da un cuore che è duro e non è sensibile alla volontà di Dio. E questo è un errore. L'altro insegnamento che possiamo trarre è proprio quello dell'idolatria, dei popoli, di non seguire quello che tutti fanno, come tutti lo fanno, perché questo è disorientante e questo porta devastazione nella nostra vita. Ma quello che mi interessa di questi passi e che mi tocca il cuore è che qui c'è scritto come i loro padri insegnarono loro. Perché questo smaschera un meccanismo che forse non tutti noi sono consapevoli di vivere. Che è il meccanismo dell'eredità padre-figlio, figlio-nipote. ed è di generazione in generazione che a volte si tramandano dei percorsi sbagliati, dei modi di fare sbagliati. Vi è mai capitato di sentire qualcuno che gli ha detto sei proprio come tuo padre? O sei proprio come tua madre? E in alcuni casi, e molto spesso, è un bellissimo complimento, almeno io lo prendo nella maggior parte dei casi, perché ho un padre meraviglioso. Però in tanti altri casi noi dobbiamo renderci conto, fratelli e sorelle, che noi abbiamo un'eredità che deriva dalla nostra genealogia, che deriva dai nostri genitori, che deriva dal loro modo di vivere, che hanno inculcato in noi e noi ce lo ritroviamo dentro senza aver scelto. Non è una scelta, è un istinto naturale, quello che poi abbiamo, magari quello di alzare la voce, ti ritrovi che sei molto chiassoso perché i tuoi genitori erano chiassosi. Oppure, e questo è poco male, ma puoi percorrere dei percorsi molto sbagliati, come hanno fatto i tuoi genitori, nel momento in cui non metti in discussione il tuo modo d'agire. L'unico modo per spezzare questa catena è riscattare la tua vita affinché assomigli a Cristo e Dio sia il tuo vero padre e mettere in discussione quello che fai, come pensi e come agisci. E non accettare tutto per buono, perché così non ti smarrisci. La mia e la tua via è in Cristo. La mia e la tua via è in un Padre buono che ci guida. La mia e la tua via è quella di una cultura che ha a che fare con la cultura del regno. Non è la cultura della tua famiglia, quella che sei chiamato a portare avanti, ma sei chiamato a portare avanti la cultura del regno di Dio ed è così che ti orienti. Il secondo aspetto è non assecondare il peccato. Mai, in nessuna occasione, il peccato ha da rivelarti o da condurti nella strada maestra che Dio ha per te. Anzi, piuttosto, il peccato è sempre un sabotaggio del percorso che Dio ha per te. L'abbiamo letto in questi giorni, nei capitoli, e per ogni capitolo, quasi per ogni capitolo, abbiamo letto e riletto questa frase che ci veniva ripetuta, e cioè Mosè fece come Dio gli comandò. Bellissimo. Mosè fece tutto quello che Dio gli comandò. Oppure Mosè e Aronne fecero quello che Dio comandò loro di fare. E vedete, per ogni comandamento che Dio ha dato a Mosè, si è sbloccato un nuovo passo in avanti, una nuova conquista. E oggi finalmente, fratelli e sorelle, ci ritroviamo nel capitolo 12, perché non se ne poteva più di tutte queste piaghe, di tutto questo percorso, di tutta questa lotta, di tutto questo combattimento con Faraone. Però ogni piaga ha avuto il suo perché. E ogni comandamento ubbidito da Mosè ha sbloccato il passaggio successivo. Vuoi capire come progredire nel regno di Dio? Vuoi capire come progredire nella tua vita? Non ascoltare, non assecondare mai il peccato. Anche quando pensi, vabbè, ma sono pochi secondi, pochi minuti, poi mi riprendo. Poi torno a Dio. Quei minuti e quei secondi non hanno il peso del tempo del tuo peccato, semplicemente, ma procurano un danno nella tua vita. E solo Dio sa come recuperare. Quindi non c'è condanna. Se ti ritrovi oggi a dire sì, io so che ho dei peccati, vai a Dio, confessali, ma schierati dalla parte di coloro, cioè di tutti noi, che odiano il peccato e non vogliono scendere a compromesso con il nemico. Perché il nemico è sempre pronto a disorientarci, a farci smarrire e a farci perdere ogni passo di conquista che invece Dio ha per noi. Ubbidisci a Dio. Quali sono i peccati che puoi vivere? Desideri della carne. Non assecondare mai i desideri della carne. Sì molto determinato ad odiare ogni desiderio della carne nella tua vita. L'orgoglio, l'avidità. Non fare mai che siano i soldi a guidare la tua vita. non c'è guida peggiore per la tua vita. E non conta se hai molti soldi o pochi soldi, a volte chi ha pochi soldi pensa di non vivere il peccato dell'avidità. Ma nel momento in cui non dai la decima, nel momento in cui non scegli di essere un uomo generoso, nel momento in cui non decidi di seguire quello che il Signore ha da dirti in questo, tu stai assecondando una tua avidità. E l'avidità è un peccato che non ti permette di conquistare i territori di benedizione che Dio ha per te. Vedete, l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo e dice: l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi sono dati, ascoltate il processo, alcuni che vi si sono dati si sono sviati. Sviati, che bel termine, ci fa capire bene come orientare la nostra vita. Vuoi una vita orientata? Non amare il denaro, non fare decisioni che sono solo e prettamente di natura economica. Non mettere i soldi avanti, metti la chiamata, metti la voce di Dio avanti e Lui provvederà. Alcuni che vi si sono dati, dice, si sono sviati dalla fede addirittura, per l'amore delle ricchezze, avevano fede, ma l'hanno persa completamente, si sono sviati. Perché? Perché hanno dato più importanza al denaro. Il denaro Gesù ce lo presenta come un Dio, il Dio Mammona. E si sono procurati molti dolori. C'è molto dolore nel seguire l'avidità e questo peccato nella nostra vita. La mancanza di perdono. Quando vivi amarezza, non riesci a perdonare qualcuno, hai rabbia, hai voglia di vendetta, sei rancoroso. Quando questo accade, vieni derubato del percorso che Dio ha in mente per te. Se devi perdonare qualcuno, fallo subito, perché il tuo perdonare ti darà orientamento per le conquiste che Dio ha in mente per te. Quindi non andare a naso, non assecondare mai il peccato. 3, non seguire le emozioni. Non seguire le emozioni. Siamo inondati di emozioni. Siamo inondati di stati d'animo. Siamo fatti in questa maniera. E non è che è sbagliato vivere delle emozioni e degli stati d'animo e delle sensazioni, ma quando queste diventano la nostra guida, quando noi decidiamo tutto in base a come ci sentiamo, a quello che viviamo nella sfera emotiva, stiamo sbagliando. Ve lo devo dire così com'è. Stiamo sbagliando. Watchman Nee, un grande uomo di Dio, ha detto: l'uomo che vive di emozioni è un uomo senza principi. C'è un rapporto conflittuale tra le emozioni e i principi. E tu puoi scegliere o di vivere per emozioni e quindi sarai in una montagna russa continua. Quando starai bene, tutto andrà bene, sarai felice. Quando sarai giù, male, tutto, lancerai tutto per aria, farai decisioni azzardate. Invece puoi vivere per un'altra strada, che è quella dei principi. Principio di seguire Dio, ascoltare Lui, vivere santità, essere fedele, essere costante, leggere la Bibbia non solo perché è un bel capitolo quello che oggi andremo a leggere, ma anche domani, quando i capitoli sono noiosi, quando la parola di Dio ci sembra che non sta trasmettendo niente. Beh, se vivi di emozioni probabilmente chiuderai quella Bibbia, ma se vivi di principi tu scegli di essere costante nella lettura quotidiana, perché è un principio che stai stabilendo nella tua vita. Io vivrò con la parola di Dio, io vivrò cibandomi della parola di Dio. Ed è quello che insieme vogliamo fare in questo anno. Non seguire le emozioni del momento. 4, non agire senza aver prima pianificato. Se c'è una cosa che ci disorienta nella vita, ci fa perdere la prospettiva, è non pianificare le cose. non comprendere che cosa abbiamo a nostra disposizione, qual è la sfida del momento e quali sono le forze per quella sfida. Gesù dice: chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Quando non pianifichi, quando non calcoli, quando non ti fermi e valuti ogni aspetto e non lo fai da solo, lo fai alla luce della parola di Dio e lo fai con dei consigli e dei consiglieri, quando non agisci in questa maniera puoi ritrovarti a fare delle scelte molto sbagliate o a vivere la vita che a volte vedo vivere, che è una vita disorientata perché passa da un progetto all'altro. Ora ci si affaccenda per questo progetto, perché si ha entusiasmo per questo progetto, perché si crede che ha le forze, e poi le cose non vanno bene, si lascia quel progetto e se ne intraprende un altro, ma non avendo preso la lezione del primo progetto, si procede alla stessa maniera, in maniera disorganizzata, in una maniera avventata, in una maniera improvvisa, impulsiva, emotiva, e poi non si riesce a costruire neanche quel progetto e si passa a un altro progetto e la vita di queste persone rimane infruttuosa perché non c'è un orientamento. Non c'è chiarezza, non c'è pianificazione, non c'è un comprendere quali sono le risorse e non c'è un vivere con saggezza. E la parola di Dio ci invita costantemente a scelte sagge e a vivere di sapienza. Ultimo aspetto, non ragionare con la tua testa. Non voglio offendere nessuno, eh. Avete tutti delle belle teste. E nessuno di noi è stupido, nessuno di noi è uno stolto che non ha sale nel cervello. Almeno tutti quelli che sono qui in sala vi posso assicurare a chi è a casa che sono tutte persone con un bel cervello. Poi non so le persone che sono a casa, non vi vedo. Avete tutti una bella testa, avete tutti una eccellente intelligenza. Però ascoltate queste parole. Proverbi 3 dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ascoltate ora, dice: non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Non ti stimare saggio da te stesso non significa che devi dire: sono uno stupido. La parola di Dio dice che io sono uno stupido, non sono saggio. Vedi, lo sapevo. È proprio quello che non volevo sentirmi dire stamattina andando in chiesa dal pastore Mirko. Non volevo sentirmi dire che sono uno stupido. Non voglio tornare a casa con questa convinzione. E nessuno sta dicendo che sei stupido. Neanche la parola di Dio. Anzi, dice che sei molto intelligente, sei creato a immagine di Dio e hai un bellissimo cervello. Ma la parola di Dio sta dicendo: non ti reputare saggio da te stesso. E qui ci vuole umiltà nel dire: io non ho tutti i ragionamenti, tutte le idee, tutti i progetti nella mia mente lineari e perfetti. Io ho bisogno di riconoscere Dio. E quando Lui dice una cosa diversa da quella che penso io, quella sarà sempre meglio di quella che penso io. Sempre. Non c'è scorciatoia. Non puoi essere mai più saggio di Dio. E poi Proverbi ci invita e fa questo invito più volte nel libro, se lo andate a leggere. Dice: infatti con sagge direttive potrai condurre bene la guerra e la vittoria, ascoltate ora, dice, sta nel gran numero di consiglieri, sta nel gran numero di consiglieri. Vuoi vincere le battaglie, vuoi essere un conquistatore, non riportarti saggio da te stesso, riconosci Dio, ma anche fatti suggerire. cerca dei consiglieri, è scomodo, è scomodissimo. Per noi uomini orgogliosi, tutti noi lo siamo, in una qualche misura farci consigliare da qualcun altro. Qualcun altro che non sta vivendo la nostra vita, che non conosce le nostre situazioni, che non può capirci fino in fondo. Perché Dio ci invita ad appoggiarci al consiglio di tante altre persone? Perché Lui vuole che noi sperimentiamo umiltà. Lui vuole che noi facciamo squadra e ci uniamo e che non camminiamo come dei caproni, uno separato dall'altro, ma come un gregge di pecore ben coordinato dal pastore, dal sommo pastore. E gli uni di aiuto agli altri. Chiedi aiuto, chiedi consiglio. E quando il consiglio ti viene dato, prendilo. Prendilo, è scomodo, ma forse... E in tante occasioni ti posso assicurare, nell'esperienza pastorale che ho avuto, molti di noi avrebbero sofferto molto meno e si sarebbero risparmiate tante lotte e tante ferite se solo avessero ascoltato qualche consiglio in più. Non ragionare solo con la tua testa. Vogliamo vivere questo nuovo anno orientati? Vogliamo viverlo seguendo la parola di Dio? Vogliamo viverlo non facendo queste cose? Ve le ripeto, non andare a naso, non assecondare mai il peccato, non seguire le emozioni del momento, non agire senza aver pianificato e non ragionare con la tua testa. Io spero che tutti noi possiamo uscire da questo incontro edificati e ritrovando orientamento in un tempo nel quale il popolo di Dio ha proprio bisogno di orientarsi. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Se è proprio questo quello che tu vuoi questa mattina, allora ti chiedo di nuovo di alzare le tue mani dove ti trovi, in segno di arrese. Voglio pregare per tutti noi che ci arrendiamo alla tua presenza, Padre, e riconosciamo che non siamo saggi da noi stessi, che abbiamo bisogno di te nelle nostre vite e vogliamo vivere nella via maestra. Quella che tu tracci davanti a noi, che sappiamo che a volte è illogica, molto spesso è scomoda, altre volte proprio ci turba. Ma noi vogliamo essere come Mosè, che ha fatto quello che era scomodo e ha obbedito a comandamenti che non sentiva di voler fare, eppure li ha fatti, per il bene suo e di un'intera nazione. Pare che noi, ciascuno di noi, possa essere quel Mosè, e segue le tue indicazioni, segue la tua guida e diventa un mezzo per la liberazione e la vittoria di molti, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Vogliamo continuare a pregare mentre cantiamo questo coro.